Sedicesimo canto dell'Inferno, dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, sedicesimo canto. Già era in loco onde s'udia il rimbombo dell'acqua che cadea nell'altro giro, simile a quel che l'arnie fanno rombo, quando tre ombre insieme si partiro, correndo d'una torma che passava sotto la pioggia dell'aspro martiro. Venian ver noi e ciascuna gridava: «Sostati tu, calabito, ne sembri esser alcun di nostra terra prava!» Ahimè, che piaghe vidi ne lor membri, ricenti e vecchie dalle fiamme incese. Ancor men duol pur chi me ne rimembri. Alle lor grida il mio dottor s'attese, volse il viso ver me e ora aspetta, disse, a costor si vuole esser cortese. E se non fosse il foco che saetta la natura del loco, i dicerei che meglio stesse a te che a lor la fretta. Ricominciar come noi restammo, ei l'antico verso, e quando a noi fuor giunti fenno una rota di sé tutti e trei, qual sogliono i campion far nudi e unti, avvisando lor presa e lor vantaggio, prima che sien tra lor battuti e punti, così rotando ciascuno il visaggio drizzava a me, sì che incontraro il collo, faceva i piè continuo viaggio. E se miseria d'esto loco sollo rende in dispetto noi e nostri prieghi, cominciò l'uno, e il tinto aspetto e brollo, la fama nostra il tuo animo pieghi, a dirne chi tu sei, che i vivi piedi così sicuro per lo inferno freghi. Questi, l'orme di cui pestarmi vedi, tutto che nudo e di pelato vada, fu di grado maggior che tu non credi. Nepote fu della buona Gualdrada. Guido Guerra ebbe nome, e in sua vita fece col senno assai e con la spada. L'altro, ch'appresso me la rena trita, è Teggiaio Aldobrandi, la cui voce nel mondo su dovria esser gradita. E io, che posto son con loro in croce, Jacopo Rusticucci fui, e certo la fiera moglie più ch'altro mi nuoce. S'i fossi stato dal fuoco coperto, gittato mi sarei tra lor di sotto, e credo che il dottor l'avria sofferto. Ma perch'io mi sarei brusciato e cotto, vinse paura la mia buona voglia, che di loro abbracciar mi facea ghiotto. Poi cominciai, non dispetto, ma doglia la vostra condizion dentro mi fisse, tanta che tardi tutta si dispoglia. Tosto che questo mio signor mi disse parole per le quali i mi pensai che qual voi siete, tal gente venisse. Di vostra terra sono, e sempre mai l'ovra di voi e gli onorati nomi con affezion ritrassi e ascoltai. Lascio l'Ofele e vo per dolci pomi promessi a me per lo verace duca, ma infino al centro pria convien ch'i tomi. Se lungamente l'anima conduca le membra tue, rispuose quelli ancora, e se la fama tua dopo te luca, cortesia e valor di se dimora nella nostra città sì come suole, o se del tutto se n'è gita fora, che Guglielmo Borsiere, il qual si duole con noi per poco e va là coi compagni, assai ne cruccia con le sue parole. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni. Così gridai con la faccia levata, e i tre che ciò inteser per risposta guardar l'un l'altro come al ver si guata. Se l'altre volte sì poco ti costa, risposer tutti, il satisfare altrui, felice te se sì parli a tua posta. Però se campi d'esti luoghi bui e torni a riveder le belle stelle, quando ti gioverà dicer i fui, fa che di noi alla gente favelle. Indi rupper la rota e a fuggirsi ali sembiar le gambe loro isnelle. Un amen non saria potuto dirsi tosto così com'e fuoro spariti, perché al maestro parve di partirsi. Io lo seguiva e poco eravamo iti che il suon dell'acqua n'era sì vicino che per parlar saremmo appena uditi. Come quel fiume ch'a proprio cammino prima del monte viso inver levante dalla sinistra costa d'Appennino che si chiama acqua cheta suso avante che si divalli giù nel basso letto e a Forlì di quel nome è vacante rimbomba là sovra San Benedetto dell'Alpe per cadere ad una scesa ove dovea per mille esser recetto, così giù d'una ripa discoscesa trovammo risonar quell'acqua tinta, sì che in poc'ora avria l'orecchia offesa. Io avea una corda intorno cinta e con essa pensai alcuna volta prender la lonza alla pelle dipinta. Poscia ch'io l'ebbi tutta da me sciolta, sì come il duca m'avea comandato, porsila a lui aggroppata e ravvolta. Ond'ei si volse inver lo destro lato e alquanto di lunge dalla sponda la gittò giuso in quell'alto burrato. E pur che un vien che novità risponda, dicea fra me medesmo, al novo cenno che il maestro con l'occhio sì seconda. Ahi quanto cauti li uomini esser dienno presso a color che non veggion pur l'ovra, ma per entro i pensier miran col senno. El disse a me, tosto verrà di sovra ciò ch'io attendo e che il tuo pensier sogna, tosto convien ch'al tuo viso si scovra. Sempre a quel ver ch'a faccia di menzogna dell'uom chiuder le labbra finché il puote, però che senza colpa fa vergogna. Ma qui tacer nol posso, e per le note di questa comedia lettor ti giuro, s'elle non sien di lunga grazia vote, chi vidi per quell'aere grosso e scuro venir notando una figura in suso, maravigliosa ad ogni cor sicuro, sì come torna colui che va giuso, talora solver l'ancora ch'aggrappa, o scoglio o altro che nel mare chiuso, che in su si stende e da pie si rattrappa. Fine del 16° canto dell'Inferno.